Ad alta voce, Elio De Capitani legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Amaranta Ursula tornò coi primi angeli di dicembre, spinta da brezze di veliero, portandosi dietro il marito tenuto al collo con un cordoncino di seta. Comparve, senza nessun avviso, con un vestito color avorio, un filo di perle che le arrivava quasi alle ginocchia, anelli di smeraldi e topazi e i capelli a calotta e lisci, riportati sulle orecchie con tirabacci. L'uomo col quale si era sposata 6 mesi prima era un fiammingo maturo, agile, con fare da navigante. Non dovette far altro che spingere la porta del salotto per constatare che la sua assenza era stata più prolungata e demolitrice di quanto supponeva. «Dio mio!» gridò, più allegra che in apprensione. «Come si vede che non c'è una donna in questa casa?» I bagagli non entravano tutti nel portico. Oltre all'antico baule di Fernanda, col quale l'avevano mandata in collegio, aveva 2 bauli armadio, 4 grandi valigie, un sacco per il parasole, 8 capelliere, una gabbia gigantesca con una 50ina di canarini e il velocipede di suo marito, smontato dentro un astuccio speciale che permetteva di portarselo appresso come un violoncello. Non si concesse nemmeno un giorno di riposo dopo il lungo viaggio. Si mise un vecchio spolverino di cotone che aveva portato suo marito con altri capi da motorista e intraprese una nuova restaurazione della casa. Disperse le formiche rosse che si erano già impadronite del portico, risuscitò i roseti, sradicò le erbacce e tornò a seminare felci, origano e begonie nei testi del parapetto. Si mise alla testa di una squadra di falegnami, di fabbri e di muratori che risanarono le crepe dei pavimenti, incardinarono le porte e le finestre, rinnovarono i mobili e intonacarono i muri dentro e fuori, di modo che, 3 mesi dopo il suo arrivo, si respirava di nuovo l'aria di gioventù e di festa che c'era ai tempi della pianola. Non si vide mai nella casa nessuno con maggiore allegria. Ad ogni ora e in qualsiasi circostanza, nessuno più disposto a cantare e a ballare e a buttare nel mondezzaio le cose e le abitudini antiquate. Con un colpo di scopa mise termine ai ricordi funerari e ai mucchi di cerpame inutile e di apparati di superstizione che si affastellavano negli angoli, e l'unica cosa che conservò per gratitudine ad Ursula fu il daguerrotipo di Remedios nel salotto. «Guardate che lusso!» gridava scoppiando a ridere una bisnonna di 14 anni. Quando uno dei muratori le raccontò che la casa era popolata di apparizioni e che l'unico modo di scacciarle era quello di cercare i tesori che avevano lasciati sepolti, lei rispose, continuando a ridere, che non credeva a superstizioni di uomini. Era così spontanea, così emancipata, con uno spirito così moderno e libero che Aureliano si sentì imbarazzatissimo quando la vide arrivare. «Che spavento!» gridò lei, felice, con le braccia spalancate. «Guardate com'è cresciuto il mio adorato antropofago!» Prima che avesse tempo di reagire, lei aveva già messo un disco sul grammofono portatile che aveva con sé e stava cercando di insegnargli i balli di moda. Lo costrinse a cambiare gli squallidi pantaloni che aveva ereditato dal colonnello Aureliano Buendía, gli regalò camicie giovanili e scarpe di 2 colori e lo spingeva in strada quando passava troppo tempo nella stanza di Melchiades. Attiva, minuta, indomabile come Ursula, e quasi bella e provocante come Remedios la Bella, era dotata di un raro istinto per prevenire la moda. Quando riceveva per posta i figurini più recenti, ad altro non le servivano che per constatare di non essersi sbagliata nei modelli che inventava e che cuciva sulla rudimentale macchina manovella di Amaranta. Era abbonata a tutte le riviste di moda, di informazione artistica e di musica popolare che si pubblicavano in Europa. E le bastava appena un'occhiata per rendersi conto che le cose andavano nel mondo come lei le immaginava. Non era comprensibile che una donna con quello spirito fosse tornata in un villaggio morto, depresso dalla polvere e dal caldo, e meno ancora con un marito che aveva danaro d'avanzo per vivere bene in qualsiasi parte del mondo e che l'amava tanto da essersi adattato a farsi portare in giro da lei col laccio di seta. Tuttavia, a mano che il tempo passava, era più evidente la sua intenzione di rimanere, poiché non concepiva progetti che non fossero a lungo termine, né prendeva decisioni che non fossero dirette a provvedere a una vita comoda e a una vecchiaia tranquilla a Macondo. La gabbia di Canarini dimostrava che questi propositi non erano improvvisati. Ricordandosi che sua madre le aveva raccontato in una lettera dello sterminio degli uccelli, aveva rimandato il viaggio per diversi mesi fino a trovare una nave che facesse scalo alle Isole Fortunate. E lì scelse le 25 coppie di canarini più belli per ripopolare il cielo di Macondo. Questa fu la più spiacevole delle sue numerose iniziative frustrate. A mano che gli uccelli si riproducevano, Amaranta Ursula li andava lasciando liberi per coppia e ci mettevano più tempo a sentirsi liberi che a fuggire dal villaggio. Invano cercò di farli affezionare all'uccelliera che aveva costruito Ursula nella prima restaurazione. Invano falsificò nidi di stoppa sui mandorli e sparse miglio sui tetti e mise in subbuglio i prigionieri perché i loro canti dissuadessero i disertori. Perché questi si innalzavano al primo tentativo e facevano un giro nel cielo appena il tempo indispensabile per trovare la rotta di ritorno alle Isole Fortunate. Un anno dopo il suo ritorno, anche se non era riuscita a intavolare un'amicizia o a promuovere una festa, Amaranta Ursula continuava a credere che fosse possibile redimere quella comunità eletta dall'infortunio. Gaston, suo marito, badava a non contrariarla, anche se dal mezzogiorno mortale in cui era sceso dal treno aveva capito che la decisione di sua moglie era stata provocata da un miraggio della nostalgia. Sicuro che sarebbe stata sconfitta dalla realtà, non si curò nemmeno di montare il velocipede, ma si mise a caccia delle uova più lucide tra le ragnatele staccate dai muratori e le apriva con le unghie e passava ore intere a esaminare con una lente i ragnetti minuscoli che uscivano dal guscio. Più tardi, convinto che Amaranta Ursula continuasse le sue riforme perché non voleva rassegnarsi, si decise a montare il vistoso velocipede, la cui ruota anteriore era molto più grande della posteriore, e si dedicò a catturare e a disseccare tutti gli insetti aborigeni che trovava nei dintorni, che spediva, in vasi da marmellata, al suo vecchio professore di storia naturale dell'Università di Liegi, dove aveva fatto studi approfonditi di entomologia, anche se la sua vocazione dominante era l'aeronautica. Quando viaggiava sul velocipede portava pantaloni da acrobata, calze da zampognaro e berretto da detective, ma quando andava a piedi vestiva di lino grezzo antimacchia, con scarpe bianche, cravattino di seta, cappello a paglietta e un bastoncino di giunco in mano. Aveva delle pupille pallide che accentuavano il suo aspetto da navigante e dei baffetti di peli di scoiattoli. Anche se doveva avere almeno 15 anni più di sua moglie, i suoi gusti giovanili, il suo solerte impegno di farla felice e le sue virtù di buon amante compensavano la differenza. In realtà, chi vedeva quel quarantenne vestito accuratamente, col laccio di seta al collo e la bicicletta da circo, non avrebbe pensato certo che avesse con la sua giovane sposa un patto d'amore sfrenato e che ambedue cedevano alla sollecitudine reciproca nei luoghi meno adatti e dove li sorprendeva l'ispirazione, come lo avevano fatto fin da quando avevano cominciato a vedersi, e con una passione che il trascorrere del tempo e le circostanze sempre più insolite andavano approfondendo e arricchendo. Gaston non era soltanto un amante feroce, di una sapienza e di una fantasia inesauribili, ma era anche forse il primo uomo nella storia della specie che aveva compiuto un atterraggio di emergenza ed era stato sul punto di ammazzarsi con la sua fidanzata solo per fare l'amore in un campo di viole. Si erano conosciuti 3 anni prima di sposarsi, quando il biplano sportivo col quale lui faceva piroette sul collegio dove studiava Maranta Ursula aveva tentato una manovra intrepida per schivare l'asta della bandiera e la primitiva armatura di tele di carta d'alluminio rimase appesa per la coda ai cavi dell'energia elettrica. Da allora, senza far caso alla sua gamba steccata, Gaston andava tutti i fine settimana a prendere Amaranta Ursula nella pensione di religiose dove visse sempre e il cui regolamento non era così severo come desiderava Fernanda, e la portava nel suo club sportivo. Cominciarono ad amarsi a 500 metri d'altezza, nell'aria domenicale delle Lande, e si sentivano tanto più compenetrati quanto più minuscoli si andavano facendo gli esseri della terra. Lei gli parlava di Macondo come del borgo più luminoso e placido del mondo e di una casa enorme, odorosa di origano, dove voleva vivere fino alla vecchiaia con un marito leale e 2 figli indomiti che si sarebbero chiamati Rodrigo e Gonzalo e in nessun caso Aureliano e José Arcadio, e 1 figlia che si sarebbe chiamata Virginia e in nessun caso Remedios. Aveva rievocato con una tenacità così anelante il villaggio idealizzato dalla nostalgia che Gaston capì che lei non si sarebbe sposata se non l'avesse portata a vivere a Macondo. Lui si trovò d'accordo, come lo fu più tardi per il laccio di seta, perché credeva che fosse un capriccio transitorio che era meglio defraudare in tempo. Ma quando trascorsero 2 anni a Macondo e Amaranta Ursula continuava a mostrarsi felice come il primo giorno, Gaston cominciò a dare i primi segni di allarme. Per quell'epoca aveva ormai disseccato quanti insetti erano disseccabili nella regione. Parlava lo spagnolo come un nativo e aveva risolto tutti i cruciverba delle riviste che ricevevano per posta. Non aveva il pretesto del clima per affrettare il ritorno, perché la natura lo aveva dotato di un fegato coloniale che resisteva senza sussulti all'afa della siesta e all'acqua con le larve. Gli piaceva tanto la cucina creola che una volta si mangiò una teglia di 82 uova di iguana. Amaranta Ursula invece si faceva spedire per ferrovia pesce e molluschi in cassa di ghiaccio, carne in scatola e frutta sciroppata, le uniche cose che poteva mangiare, e continuava a vestirsi alla moda europea e a ricevere figurini per posta, nonostante non avesse dove andare né chi ricevere in visita e che suo marito in quell'epoca non avesse ormai la disposizione d'animo per poter apprezzare i suoi vestiti corti, i suoi feltri inclinati e le sue collane a sette giri. Il suo segreto sembrava consistere nel trovare sempre il modo di essere occupata a risolvere problemi domestici che lei stessa creava e a fare certe cose che correggeva il giorno seguente con una diligenza perniciosa che avrebbe fatto pensare a Fernanda al vizio ereditario di fare per disfare. E il suo spirito festaiolo era sempre così sveglio che quando riceveva dischi nuovi invitava Gaston a rimanere in salotto fino a molto tardi per provare i balli che le sue compagne di collegio le descrivevano con disegni e finivano generalmente per fare all'amore nelle poltrone a dondolo viennesi o sul pavimento nudo. L'unica cosa che le mancava per sentirsi completamente felice era la nascita dei figli, ma rispettava il patto che aveva stabilito con suo marito di non averne prima che fossero trascorsi 5 anni di matrimonio. Cercando qualcosa da fare per riempire le sue ore morte, Gaston usava passare la mattinata nella stanza di Melchiades col ritroso Aureliano. Si compiaceva di rievocare con lui gli angoli più intimi della sua terra che Aureliano conosceva come se ci fosse stato per parecchio tempo. Quando Gaston gli chiese come avesse fatto per ottenere informazioni che non si trovavano nell'enciclopedia, ricevette la stessa risposta che aveva avuto José Arcadio. Tutto si sa. Oltre al sanscrito, Aureliano aveva imparato l'inglese e il francese, qualcosa di latino e di greco. Dato che allora usciva tutti i pomeriggi e che Amaranta Ursula gli aveva assegnato una somma settimanale per le sue spese, la sua stanza sembrava un settore della libreria del savio catalano. Leggeva avidamente fino a profonde ore della notte, anche se per il modo in cui faceva riferimento alle sue letture Gaston era sicuro che non comprava i libri per imparare, ma per verificare l'esattezza delle proprie nozioni e che nulla lo interessava più delle pergamene alle quali dedicava le ore migliori della mattina. Tanto a Gaston quanto a sua moglie sarebbe piaciuto incorporarlo alla vita familiare, ma Aureliano era uomo ermetico, con una nube di mistero che il tempo andava facendo più densa. Era una condizione così insormontabile che gli sforzi di Gaston per renderselo amico fallirono e il fiammingo dovette cercare un'altra occupazione per far passare le sue ore morte. Fu in quell'epoca che concepì l'idea di creare un servizio di posta aerea. Non era un progetto nuovo, in realtà era già in stato di avanzamento quando conobbe Amaranta Ursula, solo che non era destinato a Macondo, ma al Congo belga, dove la sua famiglia aveva degli investimenti nell'olio di palma. Il matrimonio, la decisione di passare qualche mese a Macondo per compiacere sua moglie, lo avevano costretto a rimandarlo. Ma quando si accorse che Amaranta Ursula si ostinava a voler organizzare un comitato di migliorie pubbliche e si metteva persino a ridere di lui quando insinuava la possibilità del ritorno, comprese che le cose sarebbero andate per le lunghe e riallacciò i contatti coi suoi dimenticati soci di Bruxelles, pensando che per essere pioniere i Caraibi valevano quanto l'Africa. In attesa che le pratiche procedessero, preparò un campo di atterraggio nell'antica regione incantata, che in quei tempi sembrava una pianura pietrosa e screpolata, e studiò la direzione dei venti, la geografia della costa e le rotte più adatte per la navigazione aerea, senza sapere che le sue ricerche, così simili a quelle di Mr. Herbert, stavano infondendo nel villaggio il pericoloso sospetto che le sue intenzioni non fossero quelle di stabilire itinerari, ma di seminare banani. Entusiasmato dall'idea che dopo tutto poteva giustificare la sua permanenza definitiva a Macondo, fece diversi viaggi nel capoluogo della provincia, parlò con le autorità e ottenne licenze e sottoscrisse contratti in esclusiva. Nel frattempo, manteneva coi soci di Bruxelles una corrispondenza simile a quella di Fernanda coi medici invisibili e riuscì a convincerli di imbarcare il primo aeroplano insieme a un meccanico esperto che lo potesse montare nel porto più vicino e che lo portasse in volo a Macondo. Un anno dopo le prime misurazioni e i primi calcoli meteorologici, fidando nelle promesse reiterate dei suoi soci, aveva preso l'abitudine di passeggiare per le strade guardando il cielo, con l'orecchio teso ai rumori del vento, in attesa che apparisse l'aeroplano.